Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Quante volte la letteratura o il cinema hanno raccontato storie di pugilato e quante volte nel farlo hanno narrato vicende di pugili un po' maledetti dal passato difficile e dei loro anziani allenatori. Storie intense, commoventi, storie di amicizie virili tra uomini veri, spesso ai margini della società. L'incrocio di destini che andiamo a raccontarvi oggi è la dimostrazione che questo non è solo un cliché letterario, anche se la nostra storia odierna a tutti gli effetti sembra un film. Senti, io ti volevo avvertire che devi stare molto attento a come ti giochi questo incontro per il titolo. Perché, vedi, come dice la Bibbia, non esiste seconda occasione. Sì, lo so. Allora, hai capito? Quello che ti serve è un manager. Un manager da retta a me. Io lo so perché sto nell'ambiente da 50 anni. 50 anni? Sì, signore, 50 anni. E ti dico che le ho viste tutte, tutte le ho viste. Sai cosa ho fatto? No. Tutto, ho fatto di tutto. Alcuni di voi avranno riconosciuto queste battute. Sono tratte da Rocky, il primo film della celebre saga ideata da Sylvester Stallone. In questa scena, il pugile interpretato dall'attore italo-americano ha appena saputo che combatterà per il titolo contro il campione Apollo Creed. Il suo vecchio allenatore Mickey gli si propone come manager. Diventerà un personaggio chiave nella saga, fondamentale, importantissimo. Un'importanza simile a quella che riveste per decine di pugili il nostro primo personaggio di oggi. Il suo nome è Cass D'Amato. Cass D'Amato. New York, 1930. C'è una strettissima connessione nelle grandi metropoli americane tra grande depressione e pugilato. La boxe, infatti, sport nobile, cruento e cavalleresco al tempo stesso, è una disciplina povera. Fuori dai riflettori dei grandi incontri c'è uno sterminato esercito di atleti che popola ad ogni latitudine la galassia del dilettantismo. Spesso sono emarginati, gente in cerca di un riscatto. Questi uomini lo trovano nelle palestre un po' sordide dove si pratica il pugilato dilettantistico. Non costa niente la boxe, permette di tirare su qualche soldo e di sfogare le frustrazioni della povertà tirando qualche cazzotto e sputando sudore. Cass D'Amato sceglie un'altra strada. Ha soli 22 anni, quando a New York apre proprio una di queste palestre un po' sporche. Siamo all'Empire Sporting Club, questo è il nome della palestra di Cass D'Amato. Si trova sulla 14ª a Manhattan. Avevo 22 anni quando ho aperto l'Empire Sporting Club. In realtà era un club pugilistico all'interno di una palestra, la Gramercy Gym. Eravamo nel pieno della crisi economica e ci arrivarono molti giovani che cercavano nella box una forma di riscatto. Cass nasce nel 1908 nel Bronx, ha quattro fratelli. La sua famiglia è povera e la sua infanzia è segnata da una vita da strada, puntellata da scontri violenti con altri ragazzi tra le strade del violento quartiere newyorkese. Per Constantine, questo è il suo vero nome, la passione per la box è precocissima. Lo colpisce già a 15 anni. Il fisico però non è quello di un pugile e nemmeno il talento lo supporta. L'avvicinamento di Cass al pugilato, però, avviene in modo del tutto particolare, accompagnato non dall'aspirazione a diventare pugile, presto abbandonata, bensì a diventare allenatore e insegnante. Questa è la breve strada che lo spinge a 22 anni ad aprire la sua palestra. I, Franklin Delano Roosevelt, osservando i miei doveri verso la Costituzione, sono pronto a richiedere l'adozione di quelle eccezionali misure che una nazione gravemente colpita potrebbe esigere in questo mondo gravemente colpito. Tali misure, o quelle che il Congresso dovesse ricavare dalla sua esperienza e dalla sua saggezza, io cercherò, entro i limiti della mia autorità costituzionale, di portare alla più sollecita adozione. Ma se il Congresso non volesse adottare una di queste due alternative, e se la situazione della nazione fosse ancora critica, io non mi sottrarrò alla chiara responsabilità che eventualmente mi si presentasse. Domanderei al Congresso l'ultimo mezzo che resterebbe per fronteggiare la crisi. Ampi poteri esecutivi per combattere contro i pericoli del momento. Poteri altrettanto ampi come quelli che mi si potrebbero dare se il nostro territorio fosse invaso da un nemico. È il discorso di insediamento di Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, eletto nel 1933, col gravoso compito di fronteggiare la Grande Depressione. Nel suo doppio mandato non affronterà solo quest'onere, ma dovrà anche fronteggiare la Seconda Guerra Mondiale. Per ciò che riguarda la depressione, però, Roosevelt elabora una serie di strategie, il cosiddetto New Deal, che alla lunga daranno i frutti sperati. Le città degli Stati Uniti rialzano leggermente la testa. Con esse, naturalmente, anche New York. Qui la palestra di Cass D'Amato è sempre più affollata di pugili e aspiranti campioni. Cass è un ottimo allenatore, ma gli capita una cosa non proprio esaltante. I pugili arrivano, imparano, crescono, combattono sotto la sua supervisione e poi, però, sul più bello, scappano. Sì, perché Cass è rimasto un puro e in quanto tale è rimasto fuori da certi giri. Gli incontri che contano, quelli per il mondiale, per intenderci, sono fuori dalle sue possibilità di manager. Così, al momento di fare il grande salto, i suoi pugili scappano verso manager più inseriti nel sistema. Una dinamica che è fonte di frustrazione per il giovane allenatore, un trend che prova a spezzare più volte. Il match è iniziato. Uno di fronte all'altro il campione del mondo dei pesi medio-massimi Sugar Ray Robinson e l'ex campione Rocky Graziano. Ecco che Rocky Graziano attacca con un destro, ma Sugar Ray Robinson risponde subito con un gancio sinistro. Ma attenzione, l'ex campione Rocky Graziano è a terra. Rocky Graziano, un nome leggendario della storia del pugilato, un personaggio discusso, controverso, cui è stato dedicato anche un film con Paul Newman, Lassù qualcuno mi ama del 1956, diretto da Robert Wise. Sono stato fortunato, lassù qualcuno mi ama. Beh, sapete chi ha scoperto Rocky Graziano? Sì, proprio Cass D'Amato, che alla fine degli anni 30, dopo averlo visto combattere in un incontro amatoriale, lo porta nella sua palestra. Lo allena, lo forma, lo costruisce. Al momento del grande salto, però, Graziano saluta il suo vecchio manager. Il titolo mondiale lo raggiungerà senza il grande Cass. E così faranno molti altri. Ma lassù qualcuno ama anche D'Amato, che avrà modo di rifarsi. As sure as he likes the stars, the earth and the gentle sea, I'm certain that somebody, yes, somebody out there. Tra il 1942 e il 1945, D'Amato presta servizio nell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale. Al ritorno dalla guerra, suo fratello Rocco gli presenta una persona che nella nostra storia rivestirà un ruolo fondamentale. Si tratta di Camille Ewald, una ragazza ucraina, sorella della moglie di Rocco. Cass se ne innamora, i due si mettono insieme e insieme rimarranno tutta la vita, curiosamente senza sposarsi mai. Dopo aver combattuto per il suo paese in guerra, D'Amato, con il supporto dell'inseparabile Camille, combatte negli anni 50 un'altra guerra, quella contro la IBC, l'International Boxing Council, una federazione pugilistica che controllava il professionismo negli States, presieduta da Jim Norris e controllata a quanto pare dalla malavita organizzata e in particolare da boss come Blinky Palermo e Frankie Carbo. Le ingerenze mafiose spesso costringevano pugili e allenatori a truccare i match. Celebre il caso di Jack LaMotta, costretto a cadere in un incontro con Billy Fox nel 1947 per ragioni legate alle scommesse. One, two, three. Negli anni in cui la IBC domina, D'Amato scova un altro talento. Si chiama Floyd Patterson, un fenomenale peso massimo che diventa presto il pupillo di Cass. Floyd Patterson era un pugile eccezionale, un uomo timido, introverso, ma reattivo, veloce, incisivo. Uno dei migliori di sempre e con lui ebbi un legame speciale. Patterson è il primo pugile a non tradire Cass. Vince l'oro alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Poi diventa professionista, vince il titolo e rimane con il suo primo allenatore. il quale, nella sua guerra personale alla federazione e alla sua natura mafiosa, decide di non voler nemmeno trattare con i promoter della IBC. Accetta solo sfide provenienti da altre federazioni. Si costruisce perciò un giro pulito e alternativo. Floyd Patterson entrerà nella storia, ma Cass D'Amato finisce sul libro nero dei mafiosi di Manhattan e molto presto è costretto ad abbandonare il suo pupillo per sfuggire alle minacce della malavita. Alla fine degli anni 50, Carbo e Palermo vengono prelevati dalla polizia. Processati, saranno condannati a 25 anni di carcere. Molti pugili hanno parlato, spinti dal coraggio di Cass, e giustizia è fatta. Dopo quel successo, diventai leggermente paranoico. Ero convinto che la mafia me l'avrebbe fatta pagare in qualche modo. Così me ne andai. Se ne va da Manhattan, Cass. Vende la sua storica palestra e si trasferisce a Catskill, città depressa fuori da New York. Qui, insieme alla compagna Camille, concretizza un'idea straordinaria che testimonia la sua eccezionale umanità. Apre una nuova palestra, e fin qui non ci sarebbe nulla di eccezionale. Ma poi rileva una vecchia casa in stile vittoriano, 13 stanze, e la risistema insieme a Camille. Obiettivo: prendere i numerosi ragazzi di strada di Catskill e dar loro una possibilità. Vitto, alloggio e allenamenti in cambio di lavori di manutenzione della casa. Con i soldi dei regolari iscritti alla palestra, Cass e Camille possono mandare avanti questo vero e proprio centro di recupero e tolgono letteralmente dalla strada centinaia di ragazzi. Li plasmano e li sostengono non solo sportivamente, ma anche caratterialmente e culturalmente, offrendo loro una nuova speranza. Mississippi clean. I was on that midnight flyer out of Birmingham smoking in the New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, just help me get to Houston town. There are people there who care a little about me and I won't let the poor boy down. Le intenzioni di D'Amato con questo ambizioso progetto sono semplici: aiutare i ragazzi problematici e con meno possibilità a riabilitare le proprie vite attraverso la boxe. D'Amato e la compagna Camille seguono questi ragazzi anche fuori dal ring. Oltre a dar loro vitto e alloggio, seguono il loro percorso di istruzione e usano lo sport come strumento di insegnamento e di riabilitazione per quei principi morali che la vita di strada ha cancellato. D'Amato non ha figli, questi per lui ne fanno le veci. Non necessariamente per tutti loro il pugilato coincide col futuro. Per Kevin Rooney, ad esempio, il pugilato è solo un mezzo per tirarsi fuori dai guai. Nel 1975 ha solo 19 anni e diventa campione dello stato di New York. Quando Cass l'ha raccolto, era alcolizzato, drogato e viveva quasi per strada. Kevin capisce però che il suo futuro è quello di allenatore. Diventa il più fedele studente di Cass. Impara tutto da lui. Lo rincontreremo più avanti in questa storia. A metà degli anni 70, quindi, Cass D'Amato è un uomo felice e appagato perché fa del bene facendo semplicemente ciò che sa fare meglio: insegnare pugilato e stare vicino a ragazzi dai trascorsi problematici. Sembra però avere accantonato ogni velleità di successo nel mondo della boxe internazionale. Le sue chance le ha avute, anche se il sistema gli ha sempre impedito di raggiungere l'apice della gloria come avrebbe meritato. Ma il destino è sempre in agguato e non conosce i concetti del prima o tardi. Così, alla fine degli anni 70, Cass riceve una visita da un vecchio amico di nome Bobby Stewart. Stewart è un ex pugile e ora fa l'assistente sociale in un riformatorio. Gli parla di un ragazzino che ha un talento incredibile per il pugilato. Attento, Cass, gli dice, ha solo 13 anni, è già una macchina da guerra. Ma è già stato arrestato 38 volte. È un ragazzo davvero problematico. Cass ascolta con attenzione la storia che Stewart gli racconta. Qualcosa dentro di lui gli dice che deve occuparsi di quel ragazzo, nonostante gli sterminati problemi che l'amico gli prospetta. Si consulta con Camille e decide di aprire le porte del suo centro a questo ragazzo, che andrà a prelevare personalmente dal riformatorio. Il nome di questo tredicenne è Mike Tyson. E la sua vera storia ve la racconteremo tra poco, a Destini Incrociati. Yeah. Damn. This is gonna hurt this time. You can see if y'all niggas can survive the second round. It's over. It's over. What? It's like a murder in a clearance cell. Ask about me. Yeah, tell y'all my animal. Woo! animal. Touch when the mind, I react like an animal. An animal. They say I have no conscience, I feel if I have to, yeah. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati sta scoprendo quanto sia vero uno dei più celebri cliché letterari e cinematografici. Il pugile dannato è l'anziano allenatore che gli regala con la sua saggezza un destino migliore. Abbiamo raccontato la storia di Cass D'Amato, allenatore e in un certo senso filantropo, che strappa la strada a centinaia di giovani. Attraverso il pugilato trova il modo di riscattare le loro vite, di rieducarli alla convivenza civile. Per fare questo ha rinunciato alle luci della ribalta. Alla fine degli anni 70, però, arriva un giovanotto problematico che quella ribalta saprà regalargliela di nuovo. Si chiama Mike Tyson. Mike Tyson. Il traffico che sentite in sottofondo, disordinato e caotico, viene da Brooklyn. È il 1966 e in quello che all'epoca è ancora un quartiere periferico di New York nasce Mike Tyson. Il padre del futuro Iron Mike si chiama Jimmy Kirkpatrick. Quando Mike ha 2 anni, sua sorella Denise 5 e suo fratello Rodney 7, il padre lascia la famiglia. La madre, Lona Smith Tyson, cerca di sbarcare il lunario in qualche maniera, ma è costretta a spostarsi a Brownsville, uno dei quartieri più malfamati e pericolosi di New York. Brownsville è un quartiere dall'aspetto inconfondibile, una di quelle zone che noi europei abbiamo visitato almeno una volta nel nostro immaginario con la fantasia attraverso film e telefilm made in USA. Qui tutto corrisponde al nostro stereotipo di quartiere newyorkese malfamato. C'è la sopraelevata, rumorosa, sporca, fatiscente. Ci sono quelle tipiche case tutte uguali sul marroncino, con le scalinate esterne brulicanti di gente che conclude affari non proprio puliti. E poi i graffiti, i playground, cioè i campi da basket circondati da reti divelte da qualche gesto di rabbia un po' sopra le righe. Qui per molti giovani c'è la legge della strada, quella delle bande, delle risse, dell'alcol e della droga. Ci sono gli eccessi, i piccoli e i grandi furti, talvolta si spara. Mike cresce in questo contesto, abbandonato a se stesso. Da bambino ero grasso e tutti mi prendevano in giro. Ho dovuto fare i conti con un enorme complesso di inferiorità. Ero molto solo e per avere un po' di compagnia mi trovai un cagnolino, un trovatello, e iniziai ad allevare i piccioni. Ma i bulli del quartiere lo vennero a sapere. I bulli del quartiere sono ragazzi che tormentano Mike quando ha solo 8 o 9 anni. Gli affibbiano soprannomi oltraggiosi, spesso lo picchiano, sottolineano alcuni suoi difetti fisici. In questo contesto cresce un pensiero nella sua mente. La violenza è l'unico modo per sopravvivere, per farsi rispettare. E la violenza è un impulso irrazionale. Esplode improvvisa, inarginabile, come un lampo. Talvolta ti dà un brivido profondo e da lì è difficile tornare indietro. È quello che capita al giovanissimo Mike Tyson. Un giorno uno di loro torse il collo a uno dei miei uccelli e lo mise davanti alla mia faccia. Io chiamavo mia madre chiedendole aiuto, ma non mi rispondeva. Allora ricordo che una voce dentro di me mi disse che dovevo combattere con quel ragazzo. Io lo feci. Senza pensarci lo colpì una volta, e poi un'altra, e poi ancora e ancora. Lo massacrai di botte. Da allora non sono mai stato capace di evitare le risse. I pugni. Sono i pugni gli strumenti con cui Mike trova il suo posto nel quartiere. Quando compie 11 anni, nessuno si permette più di sfotterlo. E nel quartiere circolano già le voci su quel ragazzino picchiatore dallo sguardo triste che in camera ha il poster di Joe Frazier. Nella logica delle strade, tutto ciò significa rispetto. Whenever they ask to do shit, the type of shit that you don't have to ask, who produced it, you just know, that's the new shit, the type of shit that causes mass confusion, the drastic movement of people acting stupid. Quando tutto si misura con la violenza, con la forza, con la brutalità, quando le regole progressivamente vengono meno, è facile perdere il controllo. Mike Tyson a 11 anni lo perde e nel giro di 2 anni subisce 38 arresti. Per lui si spalancano le porte del riformatorio. All'interno del riformatorio, però, Mike può iniziare a concretizzare una delle sue passioni e cercare di crearsi una svolta nella sua vita. Nell'istituto in cui ero stato rinchiuso c'era un assistente sociale, Bobby Stewart. Era un ex pugile e io avevo confidato a lui la mia passione per la box. Così mi ha fatto combattere i primi match ed è rimasto impressionato dalla mia forza. A 13 anni Mike esce dal riformatorio. Esce perché Cass D'Amato, al quale Stewart ha parlato di questo giovane picchiatore, va a prenderlo. Mike è abbastanza sorpreso, non sa chi sia quell'anziano signore dall'aspetto burbero. Come prima cosa Cass vuole vederlo combattere. Lo porta nella sua palestra e gli fa incrociare i guantoni proprio con Stewart. Dopo pochi minuti l'allenatore afferma: questo ragazzo sarà senza dubbio uno dei prossimi campioni dei pesi massimi. Per 2 anni Mike frequenta la palestra di Cass, fa avanti e indietro e la sua vita per Tyson sembra già trovare una dimensione diversa. Poi, dopo 2 anni, le cose cambiano ancora. Quando Mike non ha ancora compiuto 16 anni, sua mamma muore. Un improvviso arresto cardiaco la strappa giovanissima alla vita e lascia solo Mike. In questa tragica circostanza, Cass D'Amato prende la decisione che cambierà la vita di entrambi. Non solo decide di ospitare il ragazzo nella sua casa di Catsville, ma arriva fino ad adottarlo legalmente. Lui e Camille diventano i genitori adottivi del giovane Mike, per il quale inizia una nuova vita. È il 1982. Pochi mesi dopo l'adozione, Cass fa immediatamente approdare Mike Tyson in un contesto prestigioso, i Giochi Olimpici Junior. Sa di avere per le mani un campione. Qui il giovane pugile stupisce tutti. Fuori dal ring è composto e disciplinato, una persona diversa da quello che era solo 2 anni prima. Sul quadrato, però, è una belva feroce. Demolisce i suoi avversari con una violenza impressionante solo dopo pochi secondi di match. L'oro non gli sfugge. Per me Cass D'Amato è stato come un padre e quello è stato senza dubbio il periodo più felice della mia vita, senza dubbio. Grazie a lui riuscivo ad avere delle certezze, mi sentivo sicuro. In effetti Iron Mike sembra trasformato sotto la cura del suo padre allenatore. Quel ragazzino trascurato, vittima di una sorte crudele, costretto a diventare adulto troppo in fretta, con 1000 ferite nel profondo del suo cuore, sembra ricompattato grazie al calore, all'affetto e alla disciplina di Cass. Cass, dal canto suo, vuole accelerare i tempi. Ha superato da un pezzo i 70 anni. Sente il tempo remare contro. Il suo sogno è quello di vedere il suo pupillo indossare la cintura del campione. Dream. Destini incrociati. A Destini incrociati stiamo raccontando la storia di Cass D'Amato, storico allenatore di pugilato, scopritore di talenti come Rocky Graziano, Floyd Patterson e José Torres, e un giovane pugile di colore scoperto ormai in tarda età, Mike Tyson, un ragazzo dal passato più che turbolento. Nel 1982 Tyson, sotto la guida di D'Amato, diventa campione olimpico juniores. Poco dopo, Cass lancia Tyson nel professionismo. Il suo sogno è vederlo campione del mondo prima di morire. Il debutto avviene nel marzo 1985. Ad Albany, vicino a New York, Mike Tyson affronta Hector Mercedes. A bordo ring a supportare Mike, Kevin Rooney, un altro dei ragazzi salvati da Cass D'Amato, che curiosamente ha scelto di diventare allenatore e non pugile. Cass osserva dalle prime file. Mike viene caricato come una molla, non c'è emozione nel suo volto, sebbene si stia realizzando quel sogno che già coltivava nel suo turbolento passato, quando un poster di Joe Frazier campeggiava sul muro di casa. Quando il match inizia, forse nessuno fa in tempo a realizzare cosa stia succedendo. Alcuni spettatori non fanno in tempo a sedersi, a trovare posto. Sì, perché 77 secondi sono pochi, pochissimi. 77 secondi di rabbia. Quella rabbia che Cass D'Amato ha insegnato a incanalare nella giusta direzione, solo sul ring. Tyson la rovescia tutta sul suo avversario, che dopo 77 secondi di pugni devastanti si arrende. Il mondo del pugilato deve aprire gli occhi su questo fenomeno. E questa volta Cass D'Amato lo può gestire direttamente, senza ingerenze, senza conflitti, senza ostacoli. Almeno così sembra. Non ha fatto i conti con l'incognita più grande che possa frapporsi tra lui e il sogno di vedere il suo Mike alzare la corona mondiale. Il destino. So keep the faith. Ladies and gentlemen, please welcome the youngest man ever to hold the heavyweight title, the former undisputed heavyweight champion of the world, introducing the one and only Iron Mike Tyson. Allenato da Cass D'Amato e da Kevin Rooney, Mike Tyson continua a vincere. Accumula in meno di un anno 25 vittorie da professionista, tutte prima del limite, molte delle quali al primo round. Tyson è una furia scatenata, ma lo stereotipo che lo vorrebbe una belva feroce senza tecnica è quanto di più infondato ci possa essere. Sul ring Tyson è rapidissimo, coordinato, impeccabile, vario. Unisce la potenza alla grazia e alla rapidità. Nell'ottobre del 1985 iniziano a circolare le prime voci di un assalto al titolo mondiale da parte di Tyson. La corona avrebbe dovuto essere quella WBA, una delle varie federazioni internazionali della box. Avversario Trevor Berbick, l'uomo che aveva chiuso nel 1981 la carriera a Muhammad Ali. Cass muove le pedine giuste per fare approdare Tyson all'incontro decisivo. A fine mese però succede l'imprevedibile. Cass D'Amato, l'uomo che aveva salvato Tyson dalla strada ed era riuscito a regalargli un'esistenza dignitosa, si ammala di polmonite. Ha 77 anni. Muore il 4 novembre 1985. Per Mike Tyson è un colpo durissimo. Mi sentivo perso, completamente. Era come se fosse morto un pezzo di me, della mia vita. Ho trovato però la forza di andare a prendermi quel titolo. Kevin Rooney scuote Iron Mike. Facciamolo per Cass, gli dice. Il 22 novembre 1986 Tyson affronta Trevor Berbick. C'è in palio il titolo mondiale dei pesi massimi. For the WBC Championship of the World, introducing in the blue corner, fighting out of Catskill, New York, weighing 221 and 1/4 pounds. He is undefeated in his professional career with 27 wins, no defeats. 25 KOs, he is the challenger, Mike Tyson. Nell'angolo di Tyson c'è Kevin Rooney. Idealmente la sua presenza fa sì che ci sia anche Cass D'Amato. Il match, come già accaduto spesso a Tyson, dura appena il tempo di iniziare, pochi attimi, ed è tutto finito. That was a right to the body and an uppercut to the head, and Berbick is down. Tyson è campione del mondo. Mike Tyson è a 20 anni il più giovane campione del mondo della storia del pugilato. Kevin Rooney lo abbraccia, ma entrambi sentono di aver reso giustizia al grande Cass D'Amato, che non ha fatto in tempo a vedere il suo figlio adottivo realizzare un sogno. Un sogno effimero e fugace. Ormai tutti conosciamo le vicissitudini che Tyson ha vissuto dopo quel brillante inizio di carriera. È diventato il più grande. Poi, senza l'affetto e l'amore burbero e paterno dell'amico Cass, qualcosa si è rotto di nuovo e sono arrivati Don King, le prime sconfitte, la polvere, il carcere, nuove umiliazioni e tante tragedie personali e familiari. È una parte di storia però che oggi non ci interessa. A noi piace ricordare il destino incrociato di Mike Tyson e Cass D'Amato, che per breve tempo hanno trovato l'uno nell'altro esattamente quel pezzo di vita di cui avevano un disperato bisogno, come un padre e un figlio. We'll have our problems, will face them with pride. Our love is protection, and we don't have to hide. And a thousand nights I kiss away, the happy days you cry, and you'll always be. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.